E allora 19:11 minuti primi qua intrattengo, dobbiamo fare la telefonata per parlare un po' di Atlantide, questo spazio da molti anni, da 15 anni occupato a Bologna sotto minaccia di sgombero. Siamo, insomma, adesso contatteremo subito una compagna che ci racconta, insomma, un po' le vicende ultime di questo spazio e le tante attività che ancora si svolgono là dentro. E allora torniamo in diretta. Franca, ci senti? Sì, adesso vi sento. Oh, ben trovata. Allora, finalmente abbiamo avuto un po' di problemi col collegamento telefonico. E Franca di Clitoristrix, niente, oggi sono arrivata pure io. E parliamo con te della situazione, insomma, di Atlantide, una sede che anche voi come collettivo usate, no? Allora, innanzitutto vi ringraziamo per l'attenzione che sempre ci prestate. Sì, allora, siamo di nuovo a parlare di Atlantide, sembra un po' un déjà vu. Atlantide è dal 1998 la sede del collettivo di cui faccio parte, che è un collettivo femminista e lesbico, appunto il Clitoristrix. Da pochi anni dopo la sede di Antagonismo Gay e altri gruppi, appunto, che poi sono nati come Smascheramenti. E intorno al 2000 ci hanno raggiunto anche i compagni e le compagne punk di Nulla Osta, che si occupano più di autoproduzioni musicali e di musica indipendente nell'area punk. È uno spazio, appunto, dove noi in particolare come gruppi femministi avevamo uno spazio separato, nel senso non ci siamo mai dovute combattere con le unghie e con i denti la legittimità di uno spazio separato, nel senso che era definito dall'inizio, nel senso non uno spazio tutto nostro, ma in termini di tempo, cioè quando ci siamo noi non c'è nessun altro. E sostanzialmente questo spazio vive da 15 anni in città ed è un contesto, diciamo, che offre alla città una grande possibilità di evoluzione, e anche a livello nazionale, insomma, non c'è granché di simile in quanto a politiche femministe, queer, gay, e anche sulla questione, appunto, sul piano della musica indipendente. Oggi ci troviamo, noi siamo stati dal 98 al 2007 in occupazione. Nel 2007, quando cambiavano un po' le geografie anche della città, si è iniziato a delineare per la prima volta la questione del bando, e c'è stato effettivamente un bando le cui linee erano molto simili, insomma, alle cose che noi facevamo. Sostanzialmente, niente, in quel momento abbiamo pensato che fosse comunque il modo per tenerci lo spazio, per cui dal 2007 ci siamo costituiti in associazione, abbiamo tenuto lo spazio di Atlantide per 3 anni in convenzione. Sono stati gli unici 3 anni, diciamo, sono stati gli unici anni nei quali siamo stati formali, perché poi siamo subito rientrati in occupazione, dato che il bando è scaduto, il sindaco che è venuto dopo, è uno spazio di competenza del quartiere, il sindaco che è venuto dopo, che era del Bono, è caduto per questioni, dalle mie parti si dice di braghetta, per questioni di sesso, denaro e quant'altro, in termini un pochino più piccoli rispetto a quello che stava succedendo a livello macroscopico, a livello nazionale. Quindi c'è arrivata in soccorso la Santa Donna della Cancellieri, che attualmente mi pare sia ministro dell'interno, no? sì, che è venuta a rimettere a posto la città di Bologna, E tra le cose che ha pensato la Cancellieri è stato che questo spazio, che era appunto Atlantide, questi vari spazi del quartiere, forse il nostro indubbiamente, dovesse essere assegnato e non dovesse essere lasciato in una situazione, insomma, così di informalità, per dirla in maniera un po' eufemistica. Quindi ha stilato delle nuove linee guida, ha stilato delle linee guida da dare ai quartieri su come assegnare lo spazio, e le linee guida erano relative alla valorizzazione della cultura locale, tradizione locale. Siccome noi non abbiamo mai saputo fare la sfoglia o i tortellini, noi, cioè, quando è stato fatto comunque il bando successivo, quando poi c'era un governo, una sorta di governo tecnico anche nei quartieri, hanno fatto un bando, noi abbiamo partecipato sempre con i nostri contenuti, nel senso, noi siamo qua comunque. La nostra determinazione era non voler mai andare via dallo spazio. Abbiamo partecipato, questo bando è andato a vuoto, vi sto un po' tediando, ma vi sto dando i riferimenti, diciamo, tecnici. Certo. Questo bando è andato a vuoto perché si è ritenuto che nessuna associazione avesse, tra cui noi, i requisiti per vincerlo, e quindi ovviamente fa parte tutto dei giochi di politici dai quali noi eravamo però estranei, non avendo mediatori di nessun tipo. Poi ci sono state finalmente le elezioni, c'è stato un nuovo illuminato governo della città, il quartiere Santo Stefano, unico quartiere di Bologna, è andato in mano alla destra, perché è l'unico quartiere di destra della città. Hanno pensato bene di rifare un bando. Bene, noi abbiamo partecipato sempre con lo stesso progetto, anche qui le linee non so a cosa si riferissero, e in sostanza l'abbiamo perso. Cosa che poteva essere anche prevedibile, perché ripeto, non ci siamo tenuti. Fermo restando tutta questa trafila burocratica, rimane che nonostante le convenzioni varie che hanno proposto in giro, la nostra convinzione invece di voler rimanere all'interno dello spazio è sempre rimasta la stessa. E quindi diciamo che ora come ora siamo determinate a conservarlo lo spazio, a non cederlo, nel senso che riteniamo che, certo, i gruppi, anche le associazioni debbano avere i loro spazi, che sicuramente non vadano a discapito di quelli che si mettono a bando, si mettono fuori i posti non occupati, i posti, diciamo, liberi, non i posti, certo, già occupati, per cui siamo molto ferme e determinate a non voler lasciare lo spazio, anche perché, nonostante appunto, io non so, si possa cavillare sul fatto che abbiamo partecipato al bando, il fatto che noi dal 2007 al 2010 siamo state dentro in convenzione, diciamo, con un bando, dal 2007 non è cambiato assolutamente niente del nostro impianto, non si è mosso niente, insomma, dei nostri percorsi politici, dalle nostre impostazioni, non abbiamo mai chiesto di far tessere, di far niente, siamo rimaste identiche a come siamo sempre state. Sì, sì, a volte è più una tattica anche per prendere del tempo, insomma. Sì, perché ci è sembrata una strategia, ci era sembrata, insomma, un modo per conservare lo spazio, per tenerci lo spazio, abbiamo sempre agito con questa finalità. Ed effettivamente, e quindi, cioè, indipendentemente da qualsiasi bando, noi lo spazio lo vogliamo conservare, lo vorremmo conservare, anche perché, ripeto, è uno spazio abbastanza singolare, credo anche un pochino a livello nazionale, nel senso che comunque abbiamo conferme, abbiamo avuto sempre rapporti sia sul territorio che nazionali che internazionali con gruppi femministi, non solo, gli altri gruppi hanno curato, sì, anche nella musica, e abbiamo continuamente conferma del fatto che uno spazio, diciamo, più evoluto rispetto alla media della città. Poi in particolare come femministe, come lesbiche, lo spazio lo vogliamo tenere, perché innanzitutto perché non abbiamo nessuna intenzione di ripartire da zero ad affermare una legittimità di scelta separatista che ci siamo dovute difendere al tempo con le unghie e con i denti, e non abbiamo nessuna intenzione di ripartire da zero, sia perché ci sembra paradossale che a parte in Emilia Romagna, ma ovunque in Emilia Romagna ci sono denunce per violenze sulle donne infinite, o comunque appunto abbiamo un governo che cade perché per questioni di braghetta, come dicevo prima, E noi abbiamo all'interno gruppi che hanno sempre come clitoristrix e quelle che non ci stanno, che è l'altro gruppo che dal 2006 si è sempre visto continuativamente all'interno dello spazio, e abbiamo sempre agito, insomma, per corse politiche di contrasto alla violenza, e ci sembra allucinante che ci si permetta di sottrarci uno spazio e di sottrarre spazi alle donne in questa città già impoverita, che dovrebbe, insomma, risarcire piuttosto che saccheggiare ulteriormente le donne. Certo, certo. E poi appunto sono importanti in tutta Italia, diciamo, questi luoghi. Anche noi a Roma, insomma, ci troviamo a dover difendere quel pochissimo metro quadrato che abbiamo, insomma, abbastanza sconfortante, anche perché le energie potrebbero essere spese altrimenti. Comunque, Franca, noi ovviamente pensiamo che sia il caso di sostenere questa vostra strenua difesa dello spazio, e quindi ti chiediamo di dirci anche chi non si trova a Bologna cosa si può fare, e poi se vuoi anche se vi siete dati degli appuntamenti o non so, appunto, un'assemblea piuttosto che qualche iniziativa, se ce lo vuoi dire. Allora, diciamo che noi siamo sostanzialmente in assemblea tutti i giorni per pianificare un minimo di lavoro, insomma, che ha come obiettivo quello di non farci sottrarre assolutamente lo spazio. Il primo appuntamento che abbiamo, che ovviamente è un appuntamento più locale, è l'assemblea pubblica che ci sarà domani alle 8 al Baracano, che è proprio una sala di quartiere. Abbiamo scelto di prendere una sede di quartiere vicino ad Atlanta, proprio dello stesso quartiere che ci vuole togliere lo spazio, quindi abbiamo deciso di prendere la sala del quartiere per fare un'assemblea alle 8, e quella sarà l'assemblea, la prima assemblea pubblica, insomma, nella quale diremo queste cose. Dopodiché abbiamo una petizione che è già in circolazione, cioè un comunicato che può essere firmato sul blog, che è atlantideresiste.noblogs.org, mi pare. Sì. Lì è possibile firmare e lasciare c'è un campo obbligatorio dove bisogna lasciare una frase, qualcosa, per cui è possibile firmare quella petizione che viene indirizzata al quartiere e al comune ed eventualmente inviare dei comunicati a noi, a sostegno anche al blog che poi giriamo noi. Dopodiché stavamo pensando di fare una tappa abbastanza classica, che è quella di andare in consiglio comunale a porre la questione, a porre, insomma, la questione in consiglio comunale, e poi sicuramente capiremo e calibreremo su quando fare un'iniziativa di piazza, anche perché noi ufficialmente ancora non abbiamo avuto comunicazione, abbiamo solo avuto abbiamo avuto comunicazione che non abbiamo vinto il bando. A breve, insomma, indubbiamente faremo anche un'iniziativa di piazza che sarà da definire. E sabato facciamo una festa, perché ci piace anche godere dello spazio in maniera da divertirci, come dire. Certo. E tra l'altro la festa che facciamo sabato andrà a finanziare un gruppo di donne in Burkina Faso, che si chiama Talent de Femme, e che si occupano di arte, di teatro in uno dei paesi più poveri del mondo, e questo per noi è bellissimo, di smontare stereotipi di genere attraverso il teatro. E quindi fondamentalmente sì, siamo così determinati a volerci tenere lo spazio, e faccio questa piccola riflessione che abbiamo fatto perché abbiamo scritto anche un documento che non abbiamo definito ancora bene, però all'interno della quale per dire che avremo 10 miliardi di motivi per difenderci lo spazio, perché riflettevamo anche sul fatto di come le donne, no, siano un po' percepite spesso come luogo pubblico, perché con totale disinvoltura si accede allo spazio delle donne, si viola lo spazio delle donne, si invade lo spazio vitale, e quanta difficoltà abbiamo noi invece nell'accedere agli spazi e nel conservare gli spazi. Niente, ci sembrava così. Sì, sì, è vero, non è diciamo una bella vedere, ma insomma è così, sì, sì, è vero, così, è vero, è vero. E quindi, purtroppo vale in tanti territori. Va bene, allora, il blog atlantideresiste.noblogs.org, c'è una petizione da firmare, se no segnaliamo anche il vostro di blog. Esatto, quelle che, non che mi hanno segnalato che c'è una difficoltà per firmare la petizione. Comunque il nostro blog, se, il nostro blog è quelle che non ci stanno.noblogs.org. Sì, si trova anche digitandolo su un motore di ricerca, poi sì? Vi apre insomma il blog, e dove trovate, ma questo poi lo mandiamo in giro anche noi nelle nostre reti, il vostro comunicato insomma in cui appunto si ricorda l'importanza di questo spazio, l'unicità anche di questo spazio, e che dire, ci sentiamo magari, ovviamente noi continuiamo a restare in contatto in queste settimane e sentiamoci per gli aggiornamenti. Indubbiamente. Sì, ci sentiamo per gli aggiornamenti. Va bene, niente, importante. Vi ringraziamo del sostegno e niente, grazie a voi. Invitiamo chi ci ascolta, ovviamente non può essere a Bologna, perché una delle cose buone è quella di riempire lo spazio, tenerlo sempre vivo, pieno di jet. In ogni caso, anche firmare la petizione è un po' come partecipare a distanza, insomma. Sì, e se qualcuno vuole farsi un weekend a Bologna. Infatti, poi ne parliamo senz'altro fuori onda. Va bene, d'accordo. Franca, grazie molte, grazie un a tutte, abbraccio a tutte a voi tutti. E ci sentiamo anche magari per la prossima settimana, insomma, ci mettiamo, ci teniamo in contatto. Ok. Grazie. Grazie mille. A presto. Ciao, ciao, ciao.